Io non posso addormentarmi, devo stare sempre allerta, perché il sogno che mi aspetta, se sei tu ha sempre fretta, perché la tua notte scappa, se la inseguo è già mattina. Per me sei diventata l'altra faccia della luna. Le mie notti di parole fanno tanto bene al cuore, ma la mente non riposa, con la mano si trascina fino a che il tuo orizzonte sulla carta si nasconde. E poi, stanco di pensare, metto il mare in un bicchiere. Fammi posto in un cassetto tra lenzuole e asciugamani, un cuscino sotto al letto fino a che torni domani. E se poi deve finire, cresci in fretta, amore mio. Ogni cosa è relativa, anche questo strano amore. Lascerai andare e ripartirò di nuovo, guarderò da solo il mare che ricorderà il colore dei tuoi occhi dolci e duri come lame di velluto. La realtà del mio presente nel tuo mondo è perdente, e ritornerò a cantare, rifarò le mie canzoni, senza cielo e senza sole, senza cuore e senza amore.